FM presenta Country Skyline. Buonasera, buonasera, buonasera cari ascoltatori di Rock FM. Proprio in questo punto, in questo preciso punto della sigla, questa sigla che apre Country Skyline ormai da quanti anni? Da 13, esattamente da 13. Che entra la voce del Faulisi a presentare quindi l'ennesimo appuntamento con la Roots Music, la Country Music da Rock FM. E martedì sono le 23. In diretta con replica il venerdì, comunque Country Skyline va in onda il martedì e il venerdì alle 23. Un appuntamento che in tanti non osano mancare. Sì, diciamo che la banda degli appassionati si fa, va crescendo di giorno in giorno, insomma. Forse che anche questa trasmissione nel suo piccolo abbia un qualche pur responsabilità nella diffusione di una musica che in Italia non è seguitissima, ammettiamolo. Almeno i mass media fanno finta che non ci sia, se non proponendola di tanto in tanto sotto forma di cliché, di stereotipo, eccetera eccetera. Poi quando invece la fai ascoltare alla gente in versione live, la gente apprezza, e chi passa qui dalle frequenze di Rock FM casualmente al martedì sera spesso scopre: ah, ma è questa allora? Sì, signori miei, è proprio così, è questa. Ed è anche questa. I've been in and out of every honky-tonk in town, and I'm almost drunk from the drinks that I've turned down. Well, you told me you'd be happy bouncing babies on your knee, while I sit at home alone and I've been bouncing. Loretta Lynn. Yeah, I'm tired of it. Alle assolutamente meritevole l'apertura di Country Skyline questa sera. Loretta Lynn dal suo album, il suo ultimo album, Van Lee Rose, di soltanto un paio di anni fa, tra l'altro. Ecco, così va meglio. Sì, soltanto di un paio di anni fa, continua a essere l'ultimo disco di Loretta Lynn, registrato tra l'altro con Jack White dei White Stripes, e per tutto il disco l'impronta decisamente rock la si sente, anche quando non sono pezzi rock come quello che abbiamo ascoltato e che porta il titolo di Mrs. Leroy Brown. Loretta Lynn, una delle grandi regine della country music, insomma, che ha cominciato negli anni 60 e che quasi a titolo provocatorio ha voluto dare quest'ulteriore graffiata per dimostrare che, insomma, la leonessa è ancora lì, pronta a spiccare il salto, e ce l'ha fatta. Insomma, avete sentito che grinta? No, non era una ragazzina tutta piercing e tatuaggi, questa è una signora di oltre, ecco, non andiamo oltre, non si dice l'età, perché davvero siamo davvero avanti con gli anni. Una signora che probabilmente in tanti avrebbero pensato di vederla sul viale del tramonto, invece eccola qui. Questa era Loretta Lynn. Yeah. E qui eravamo in compagnia di Katie Lang, 45enne dello stato dell'Alberta in Canada, arrivata a notorietà internazionale nella metà degli anni 80 con un album tutto country intitolato A Truly Western Experience, seguito nell'87 da Angel with a Lariat e nell'88 da Shadowland. Dopodiché un ultimo album cantreggiante, Absolute Torch and Twang, del 1989, e quindi dagli anni 90 è passata definitivamente al pop. E che dire di questa meravigliosa cantante, che è un peccato che abbia smesso di fare country music, per esempio. Che dite? E con lei torniamo ad ascoltare Loretta Lynn, ma anche Brenda Lee. I'm down to my last cigarette. The coffee's all gone and my eyes burn like fire. It's way past the hour when most folks retire. You told me you'd call me, but you haven't yet, and I'm down to my last cigarette. Seconda volta questa sera, beh, non la si ascolta poi così spesso. Era Katie Lang, l'abbiamo ascoltata con I'm Done with My Last Cigarette, tra l'altro tra le voci che accompagnavano, che duettavano ai cori più che altro. Dimenticavo di citare poco fa Kitty Wells, e Kitty Wells insieme a Brenda Lee e Loretta Lynn, che abbiamo ascoltato in apertura, sono da ritenersi tre grandi stelle della country music di ieri, che lei, Katie Lang, ma probabilmente soprattutto Owen Bradley, il produttore di questo disco, hanno voluto insieme alla stessa Katie Lang per incidere un album intitolato Shadowland nel 1988, che è un vero meraviglioso tributo alla Nashville Sound dei primi anni 60. Tant'è, magari vi sfugge, ma ve lo dico io, che Owen Bradley è stato uno dei più grandi produttori del periodo, proprio insieme a Chet Atkins è stato tra i grandi a sviluppare il Nashville Sound e a mantenere vivo, anzi rilanciare il country music in un periodo, parlo della seconda metà degli anni 50, primi anni 60, che insomma avrebbe rischiato di essere spazzato via come altri generi musicali dal rock and roll che è arrivato a metà degli anni 50 in una maniera assolutamente dirompente. E questo era a chiudere quasi la parentesi country di Katie Lang, questa cantante, interprete, ma mi pare che sia anche ottima autrice, che negli anni 80 si esprimeva attraverso la country music e che in seguito invece è passata al pop, al rock pop, ma decisamente pop di una certa ricercatezza. La prima canzone che abbiamo ascoltato invece era tratta dall'album del 1995 All You Can Eat. Il brano era Word of Love e il motivo per cui l'ho mandato in onda è soltanto per farvi capire, insomma, la differenza stilistica della post e pre svolta di Katie Lang. Ma adesso passiamo a qualcosa decisamente di più grintoso dopo questo Nashville Sound di Katie Lang. Questa grinta arriva ancora da Nashville, da artisti assolutamente contemporanei che portano il nome di Brooks & Dunn. Da Red Dirt Road ascoltiamo Caroline. Tommy got off at the Texaco, came busting in an enormous cafe. Said, come on man, we gotta go. Yeah, you know how those party girls hate to wait. Filled up his status trunk with ice and beer. Yeah, he was always stealing the old man's car. Radio never came in too clear, so I'd bang out one on my piece of junk guitar. Yeah, we rule from the blacktop to the levee where the party never stopped. Spirit was alive when we ancora attuale, come sempre attualissimi, sono questi due giovanotti ultra cinquantenni che portano i nomi di Brooks and Dunn da Red Dirt and Road. Abbiamo ascoltato When We Were King, non Caroline, erroneamente annunciata poco fa. Bravi, bravi, bravi, il duo più famoso della storia della country music è quello di Brooks and Dunn. Non è famoso come questi due giovanotti, ma anche lui, Larry Stewart, e niente male, davvero davvero. Bravo, bravo, bravo, Larry Stewart. Questo era Larry Stewart. Lo abbiamo ascoltato con una canzone dal gran e indimenticabile repertorio di Jim Croce. Questa canzone è intitolata One Less Set Footstep. Era Larry Stewart, uno dei tanti bravi che popolano la città di Nashville, Tennessee. È una città dove si produce country music in una maniera davvero industriale, con una qualità sempre altissima, spesso forse fin troppo simile a se stessa, perché troppo spesso vengono utilizzate sempre gli stessi produttori e quindi gli stessi studi di registrazione e quindi gli stessi session men. Ma c'è stato un periodo, un lunghissimo periodo, particolarmente nella lunghissima storia della country music, quello degli anni 90 e parte degli anni 2000, anzi direi da quasi 20 anni, dal metà anni 80 ai primi degli anni 2000, che Nashville ha davvero rappresentato il meglio della produzione discografica mondiale, davvero, sì. E come, che poi in quegli anni a Nashville ci fosse un plotone di session man veramente strepitoso, persino migliore di quelli che abbia mai popolato e prestato servizio in quella città in passato, non è una coincidenza evidentemente. Un po' di nomi li trovate tutti quanti, insieme ben 54 di questi nomi li trovate in un album intitolato The New Nashville Cats, registrato da Mark O'Connor ormai parecchi anni fa, si parla degli anni 90, quando nel 91, quando lui risiedeva a Nashville e lavorava ininterrottamente, probabilmente 24 ore al giorno come session man, incidendo con violino, chitarra, mandolino e ogni strumento a corda che riusciva a trovare, nei più grandi album e più grandi canzoni della storia della country music del periodo. Ecco, a un certo punto poi ha detto basta, ma prima di dire basta ha voluto immortalare fare comunque un tributo a questa musica e alla città di Nashville con questo album che mette insieme, ripeto, 50, ben 54 session men strepitosissimi, e tra le canzoni che compongono questo The New Nashville Cats del 1991 lì trovate la sigla di Country Skyline. La scorsa settimana vi ho fatto ascoltare Eric Johnson, che è il protagonista di quella della base, quella che state ascoltando adesso anche in questo momento mentre vi parlo. Beh, adesso invece vi parlo in questa trasmissione del disco che propone quel brano intitolato Bauty, ma che non ascoltiamo. Vi voglio fare ascoltare una canzone che la lunga presentazione, non temete, sarà poi premiata da una, la vostra lunga attesa sarà premiata da una lunga canzone, un lunghissimo brano di ben 5 minuti e 43 secondi che vi farà rizzare i capelli. Ve lo posso garantire, perché si tratta di un esercizio, ma se chiamiamolo così in maniera ironica, un esercizio musicale che si chiama Orange Blossom Special, che è nel repertorio di ogni artista bluegrass e country, particolarmente se questo artista suona il violino. Comunque è uno strumentale famosissimo che hanno riproposto in tutte le salse. Ecco, non lo ascolterete mai più veloce come in questa versione, che è volutamente sopra le righe, e quindi certo c'è tutta la volontà di dimostrare la grande tecnica di cui questi musicisti sono capaci, ma ci si sono voluti proprio divertire sopra, si saranno guardati in faccia e si saranno detti: ragazzi, ma la facciamo veloce stavolta, ma ancora più veloce del solito. Orange Blossom Special.